il gordo. Il gordo è un cazzo. Beh, il gordo, sempre gordo rimani per adesso. Beh, buono, 6 kg in 10 giorni è buono. 6 kg in 10 giorni non è male. Risultato. Meglio dell'M praticamente. Meglio dell'M si potrebbe dire. Ho i pantaloni nuovi che ho comprato ieri, non mi ero mai comprato dei pantaloni di questo tipo. Ma pure l'uccello diminuisce. Pure l'uccello diminuisce di peso quando si dimette. È molto più affamato il mio uccello di me, in realtà ho capito con questa vista. Mamma mia. Comunque ragazzi, avete appena sentito un piccolissimo saggio del terrorismo quotidiano. No, nessun cioè terrorismo. Il signor Parenzo vi ha dato un numero. Parla con De Luca. Ma non me ne frega un cazzo parla di De Luca. Con stai De Luca. Zitto un attimo, giù Roma. Allora, ma la curva dei contagi. Lascia perdere. Il numero sono milioni quelli che hanno il coronavirus o che hanno avuto il coronavirus. Certo. Milioni. Dunque non rompete il cazzo con questo bollettino quotidiano. No, 1900 non c'entra nulla. Guarda le terapie intensive, -2 da ieri. -2 ma da ma ieri. Ma chi sei? Ma è una meno scusa. Non andare a lavorare, ma Zangrillo per non aprire le scuole. Ma chi siete, Zangrillo? Ma che cos'è? Dai, avete rotto i coglioni. Vai con l'M ieri a Piazza Pulita, vai. L'M a Piazza Pulita. Stupendo. E tu ti fai incassare quel bavaglio che tu ti sei messo. Quello è un bavaglio, è una sottomissione. Ti stanno veramente plagiando il cervello. Addirittura. Questa è la paura. Addirittura, sì. La dittatura sanitaria, chip sottopelle. Non ragionate più, dovete tirar fuori i coglioni. Dobbiamo ribellarci a questa dittatura. È una dittatura sanitaria. Forse non sai cosa stanno facendo. Stanno sottomettendo l'essere umano. Ah sì? E come ci sottomettono? Col chip sottopelle? No, lei ha detto anche questo. Grande l'asta. Cioè, hanno iniziato col chip. Il virus fatto in laboratorio. Virus fatto in laboratorio. Bello che poi rompono il cazzo a chi intervista l'M da anni dicendo beh, però cose magari. Il culo, l'ottimo ma fanculo, ogni giorno glielo facciamo il culo noi. Lo ha messo. Ma vai a cagare. Lo ha messo sotto. Virus fatto in laboratorio, lo diceva sì. Anche Zaia. Sì, sì. Ah, appunto, sì. Ma perché secondo te il COVID è naturale o è stato fatto in laboratorio? E me lo dica lei che lo sa. È stato fatto in laboratorio. Ma dai, davvero? E chi avrebbe avuto mai intenzione a fare questo virus in laboratorio per poi sottomettere il mondo? Ma come non è chiarissimo? Gli unici focali che ci sono gli extracomunitari, cioè gli invasori, che quelli che ci portano del COVID ancora e vanno in giro per l'Italia. Mentre gli invasori, cioè diversamente colorati. Io li chiamo invasori. Diversamente? Colorati. Amico mio, qui abbiamo un'esperienza, i diversamente colorati, anni e anni di esperienza con l'M, vai ancora. Potremmo dire che l'M è un intelligente asintomatico. Dai, senti. Io sono curiosamente razzista, io difendo la mia razza. E la sua razza qual è, scusa? Italiana. Voglio difendere gli invasori, sì, mi voglio difendere gli invasori, perché ci stanno invadono in Italia. E ci portano il COVID. Quante ne sono che sono infetti? Sono quante positivi sono? E girano per tutta Italia liberamente e nessuno dice niente a queste persone. Vai Alberico, non fate il vaccino, è pericoloso, non facciamo le cavie, dice l'M. Ma come questa vai, è Alberico? La trasmissione questa è la trasmissione che dà lo spazio più grande tra tutte le trasmissioni ai negazionisti molto grave, e a quelli grave. Che non vogliono fare il vaccino con tu che sul gli COVID dici, vai, il vaccino bravo. Anti-influenzale e tu che li carichi questa pure. È la vostra trasmissione, potete chiamare tranquillamente senza problemi, altrove vi censurano, qui nessuno vi censura tranne Parenzo che vorrebbe mettere i bavagli a questi qua. No, perché ma tu Parenzo, non li attacchi qua. Neanche. No, io li attacco quando non mi pare livelli, a me. Non sei tu, li accarezzi tu, come si fa con i gatti. Io li faccio parlare come tutti, faccio parlare a neonazisti, antivax. Ma dovresti incalzarli, metterli in discussione. Non digli sì, bravo. Ma non ho capito. Ma tu ti immagini Vespa che intervista Priebke e poi gli dice vai Priebke all'attacco. Non sarebbe possibile, no? Io non Bruno Vespa non intervisterebbe mai Eric Priebke dicendogli bravo all'attacco. Ma Priebke, questa non all'attacco. È porta a porta però. Tu non sei è porta, così non è ma porta tu sei porta. Uguale ma tu no, hai davanti no, Eric Priebke no. Dice delle cose terribili, bravo, vai, non farti intimidire, ha ucciso milioni di ebrei, non farti intimidire. Ma come si fa? Ma tu sei questo, tu aspetta, sei questo, aspetta. Vai all'attacco. Ma vi volete sbagliare o no? E noi italiani siamo qui a fare le cavie? Attenti, attenti al vaccino. Attenti al vaccino. Che c'è qualcosa di molto grave sotto. Lei sta facendo disinformazione, però, in questo momento. È arrivato quell'altro. È arrivato prima un'intervista. Prima un'intervista, poi dice sta facendo disinformazione. Mi sta l'intervista per metterlo in contraddizione. Non può dire alle persone, non fatevelo perché io so perché e non dovete fare. E non ci dice mai perché. No, io vi consiglio, non fatelo. No, lei ha detto non fatelo. E non fatelo. Lo ribadisco, non fatelo. Ma perché? Perché è pericoloso. Il dietologo, anzi il farmacista Alberico Lemme. Ma ci sarà un ordine dei farmacisti? Ma non rompete i coglioni. Ma non rompete i coglioni. Ma che è? Ma sei peggio di lui. Ma sei peggio di lui, tu. Ma sei peggio di lui, tu. Ancora parli. No, ma cioè, io, dai, no, come sono peggio di lui? Io non ho mai detto delle puttanate. Se c'è un vaccino lo faccio. Se c'è un vaccino lo faccio. Adesso si fa il vaccino lui. Adesso si fa il vaccino. Se ci fosse un vaccino lo farei. Ma una roba incredibile. Ma certo. Intanto, a proposito di diversamente colorati, c'è un deputato della Lega, tale Zoffili, che in Sardegna si è sdraiato davanti al porto di Arbatax, sulla banchina del porto di Arbatax. Mi dicono che è ancora lì. Per impedire lo sbarco della barca Alan Kurdi, della nave Alan Kurdi, bellissimo. Che gli domandino invece che fine hanno fatto i prezzi del latte che aveva promesso Salvini in campagna elettorale. I prezzi del latte, no, come sei diventato? Come sei diventato? I prezzi del latte. Ma vaffanculo, vai, i prezzi del latte. Ma criticalo per qualcos'altro, non per i prezzi del latte, mamma mia. Avevano fatto delle promesse false. Vabbè, ma d'accordo, ma chi se ne frega? Allora, Zoffini, da qui non mi muovo, senti, da qui non mi muovo. Poi posso dire una cosa, però. I francesi hanno mandato a fanculo questa Alan Kurdi, no? Non vogliono che sbarchi lì tranquillamente. Loro sono i buoni. Noi invece ci dobbiamo sobbarcare questa Alan Kurdi. Ma perché? No, come spiegami. Sì, i francesi l'hanno respinta. Dice no, tocca all'Italia. Male. Intanto male. È così. Cioè... Io da qua non mi muovo. Vabbè, dimostrando questo. Pacificamente contro questa vergogna e contro anche il trattamento che hanno ricevuto i rappresentanti del popolo sardo. Che vada in Francia la Alan Kurdi. Poi tra l'altro se uno si sdraia lì quella nave può attraccare lo stesso. Questo è il primo sbarco di una ONG qui in Sardegna. Doveva andare in Francia, che vada in Francia, ma non nella stupenda Sardegna. Vabbè ragazzi, la politica anche questa. La politica è anche di chi prende un sacco di voti, per esempio a Frattamaggiore, tale Raffaele Parolisi, il più votato, credo 1000 rotti voti a Frattamaggiore, sentitelo, praticamente non parla italiano, avanti tutta. Sto più votato al consiglio comunale di Frattamaggiore, più di 1000 voti, sono elettorato di 19.000 votanti circa. Come ha ottenuto questi risultati? Come è stato possibile questo successo? Allora, sono 1090 precisamente. Però voglio dire anche a qualcuno che ho fatto intervista con una TV che dico non so parlare. E non so parlare cosa vuol dire questa gente. Che vuol dire? Allora, tu mi fai una domanda. Vabbè, però a volte perché sono anche un preso un po' dell'emozione, perché diciamo 1090 voti è una cifra enorme, diciamo così. Tu mi chiedi come mai? Io sono uno che lavoro molto nel sociale. Lavoro tutto i giorni, tutto l'anno, giorno. Mi fermo mai. Fermo mai? Sono emozionato comunque. Fammi un'altra domanda perché sono emozionato. Luciani, te che parli di marchette da parte di Parenzo e Gottardo, dice quanto t'ha pagato la famiglia Agnelli, brutto pezzo di merda, gobbo bastardo. Blumatica, il software scelto da ingegneri, architetti, geometri, geologi e periti. Vi presenta La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'800 24 0024 o whatsappate il 393 71 71 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Quindi, da quello che abbiamo capito, alle elezioni hanno vinto tutti. Per prendere un passaporto italiano ci vogliono 12 minuti e un reddito di 10 milioni l'anno. Ma quello che non ho capito, per fare chiudere la zanzara, quanto cazzo di firme ci vogliono? Grande Crucio, torno dal lavoro e con la testa sono già domani caccia caccia libera, fagiani e lepri. Ottimo. Siamo al top, siamo al top. E voi, Gottardo compreso, li considerate degli assassini, li considerate è uno stupro della proprietà privata, cioè uno ha la doppietta in faccia. No, è incredibile, in Veneto dove manifestavano per la legittima difesa, c'è la gente con la doppietta in spalla che può entrare dentro il mio campo e io non posso farci un cazzo. Ma chi te l'ha detto? Ma non è vero. No, è la legge. Sei un forestale, sei diventato è diventato un animalista di riporto, è diventato. No, non è un animalista. Ecco, una porcheria, sparano vicino alle case. Ma rubano le cose vicino alle case. Certo, sparano vicino alle case. Voi allora, abitate ragazzi, in città, non lo sapete. Sì, può essere. Allora, ragazzi, c'è una cosa che riguarda l'inchiesta Suarez, una cosa che riguarda l'inchiesta in corso. Finalmente le parli. No, aspettavo. Ma posso dire? No, posso dire una cosa. Ti aspettavo al varco. No, ti aspetta, al varco. Aspetta, ti dico subito, stai zitto. Dovresti mettere la musica della Juve, l'inno della Juve. No, tu. No, no, basta con queste stronzate. No. E in quale? Giù. Allora. Il vostro idolo, il procuratore di Perugia, Cantone, ha bloccato tutte le indagini per violazione del segreto istruttorio, perché sono uscite le intercettazioni, capito? Ha bloccato tutte le indagini. Vedremo. E su intanto oggi inchieste non l'hanno fatto, però quando uscivano le intercettazioni. Un tuo amico. Altre inchieste non lo fanno, un però. Un tuo amico, presidente del Codacons, e qui si potrebbe discutere sul Codacons a lungo. No, io non discuto. Associazione dei consumatori dice che bisogna mandare la Juventus, bisogna retrocedere alla Juventus. Sì, l'avvocato Maria Donzelli. Se fossero confermate le intromissioni della società, retrocedere alla Juventus. Io dico solo questo: Codacons, Juventus in Serie B e l'altro che blocca le indagini per la violazione del segreto istruttorio. Dico solo questo, poi lascio la parola a voi. Allora, ieri sera dal signor Del Debbio ho avuto una discussione con Vladimir Luxuria. Questa è l'unica trasmissione che manda in onda le partecipazioni dei conduttori ad altre trasmissioni televisive. Mamma mia. Ho detto a Luxuria: vuoi mandare in galera chi dice che i gay fanno schifo? Cioè, se io dico e non lo dico che i gay fanno schifo, devono andare in galera. E non lo dico che i gay fanno schifo. Ah, deve andare in galera. Assolutamente. Uno che dice i gay fanno schifo deve andare in galera, secondo te. No, galera, pagare una multa, comunque galera no. Una penale, se uno dice a me fanno schifo i gay, per te deve essere sanzionato. Un'ammenda, sì, assolutamente. Ma no, ma siamo alla psicopolizia. Ma dai, tu sei pazzo, voi siete pazzi. Assolutamente. Voi siete pazzi. Cioè, se io dico mi fa schifo Cruciani e Cruciani è gay, ragioniamo per assurdo. Sì, ma allora devo andare in galera. Ma Cruciani non è una categoria, Cruciani è Cruciani. Sentiamo Luxuria contro Cruciani, incredibile, uno dei conduttori. Ci potrebbero essere dei casi in cui io dico a me le coppie gay mi fanno schifo. Ti portano in tribunale, a parte e ti condannano. Si può anche non dire fanno schifo. Ma perché poi mi dicono non fanno schifo. Io non lo dico, ma se c'è qualcuno che dice fanno schifo, che va in tribunale. Perché un conto è una parola e un conto è l'inferno. Ma lo vedi qual è il fatto? Perché devo dire che mi fa schifo? Ma se io lo voglio dire, perché non posso. Uno può dire non approvo le coppie gay, ma non dire mi fanno schifo. Non sto facendo l'insulto. A me non mi fanno schifo. A me non mi fanno schifo. Allora perché dici che una persona deve essere libera di dire a me che mi fanno schifo? Ma non devo andare in tribunale. Un conto è la parola, un conto è la parola. Lo dice. Io non voglio sdoganare la parola. Le parolacce vuoi passare in tribunale. Ma questo è le parolacce vuoi passare. Io mi rivolgo alla Sant'Anchè, le dico che lei ha poco di buono. Lei non si arrabbia? Non lo considera un insulto? È un diritto d'opinione. È un diritto d'opinione. A parte che c'è già la Bologna, Bologna, parte che c'è Bologna. Cioè non bisogna. C'è già la diffamazione. Ragazzi, arriveremo di questo passo, arriveremo alla censura. No, ma che c'entra la Sant'Anchè, non c'entra nulla. Sentivo la Sant'Anchè sotto che ma non c'entra niente. Questo è il tema, ma certo il tema. Che il tema è quello. Alla fine arriveranno a censurare le parolacce. Ma quale? Perché dici che un gay fa schifo. A me i gay fanno schifo. Ma non si può dire, non lo brutto, dico. Non si dice. Ma non si dice. Ma vi rendete conto? Ma dove arriveremo? Ma dove arriveremo? Allora posso dire che i leghisti mi fanno schifo. Esatto. E non mi condannano. I gay invece mi condannano. Che roba è? Ma roba incredibile. Certo. Ha ragione Gottardo, in pieno. Se io posso e dire, allora, lo dicono tutti, i leghisti mi fanno schifo. Posso dire Juve merda? Posso dire Juve merda e mi va bene. E invece i gay mi fanno schifo, vado in galera. Allora, altra polemica di oggi, su un manuale per la seconda elementare, è spuntata una vignetta. Brutto anche quello. È spuntata una vignetta con un ragazzo di colore, un bambino di colore, che dice: quest'anno io vuole imparare italiano bene. Razzismo. E la casa editrice è costretta a scusarsi e dice che ristamperà tutto. Linguaggio imbarazzante. Ma che bisogno c'è? Ma ragazzi, su un libro la parodia di un nero. Avete rotto il cazzo. Ma perché non hanno messo la foto di Di Maio? Rotto il perché cazzo. Non hanno messo la foto del ministro degli Girazzi, esteri, scusa? Girazzi. O di Antonio Razzi? Ragazzi, perché non hanno messo la, bravo, la ma foto di Razzi? Ma non e hanno messo cosa il ragazzino razzista. Di colore invece? Perché, la cosa di... perché è il prototipo di quello. O di Suarez? Perché non hanno messo la foto di Suarez? Sì, la foto di Suarez dovevano mettere! La foto di allora Suarez! Stampato qualche foto mese di Suarez! Rincoglionito. Foto di Suarez devono mettere nella versione cioè, aggiornata che rimarranno. Passa per razzismo la figura di un ragazzino di colore che dice quest'anno io vuole imparare italiano bene, cosa che accade nelle scuole italiane, accade è che qualcuno stereotipo. Ma è ho capito, stereotipo. Ma porca puttana, esatto. Non è razzismo, avete rotto dai, i coglioni, avete Davide da Ferrara, avete rotto i coglioni con sto razzismo, con la casa editrice che si scusa, perché non ci hanno pensato prima? Per appunto, mesi hanno appunto, stampato quel appunto, libro, appunto, dai, appunto, su. Davide. Mi sentite? Sì, dimmi. Ciao, ascolta, io stasera volevo coglionare Parenzo, poi alla fine mi tocca pure coglionare Gottardo perché ho scoperto quest'anno che pure lui si vuole vaccinare. Quest'anno io voglio imparare italiano bene il razzismo, roba pazza. È incredibile. No, è una stupidaggine. Davide enorme. Da Ferrari, no, passa per razzismo invece. Davide, dimmi. Abbiamo finito Suarez, ok. Volevo coglionare Parenzo, eppure mi tocca coglionare pure Gottardo che ho scoperto che può vaccinare pure lui. Ma perché tu sei medico? Che cosa sei? Io sono un medico anestesista rianimatore della terapia intensiva. Non mi devi coglionare. Sei contrario ai vaccini? No, ti spiego subito perché. Allora, Parenzo, tutta perché? Questa sicurezza che trovi nell'attaccare coloro che non si vogliono vaccinare, qual è la motivazione? Ma tu sei contro i vaccini? Crisanti. Io sono pro vaccini, sono contro il vaccino del Covid, perché non ha un senso e ti spiego il perché. Perché non c'è ancora il vaccino sul Covid? Ma io parlo appunto, di non c'è perché non è possibile realizzare un vaccino in 6 mesi, ci vogliono 2 anni minimo prima. Secondo, a Oxford, faccio come capitore. Primo, secondo, ad Oxford hanno avuto un mucchio di reazioni avverse. Ma sì, questo lo sappiamo, questo, sì, questo lo sappiamo. Allora? Questo lo sapete. Allora perché Parenzo continua a dire coglione coloro che a quelli che si vogliono vaccinare? Perché non vogliono vaccinare? Hai ragione perfettamente. Francesco da Bari, fermi tutti. Francesco da Bari, dimmi Francesco, dimmi. Oh, Francesco. Io d'amore a Parenzo perché volevo andare. No, niente, Alessandro da Grosseto, vai Alessandro, dimmi. Alessandro, Alessà, oh, e dai, su, Francesco, Alessandro. Ma dai, ragazzi, su, ma di che stanno a parlare? Comunque, ragazzi, il razzismo non è in quella frase lì. Non è in quella frase lì, non può essere in quella frase. Vergognoso. Ma avete rotto i coglioni di tacciare tutto beh, per razzismo, di far passare tutto vaccino, per razzismo. Potrebbe essere un vaccino per il razzismo, gliene metti un po' nel libro di scuola e così loro si vaccinano al razzismo, quello vero. Fermi potrebbe tutti, essere un grande esperimento. Fermi tutti. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. La Zanzara. Ma giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024 oppure se volete mandare un sfaccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Oh Cruciano, ma tu comunque sei proprio stupido, eh? Cioè secondo me tu hai smesso di fare la parte del principe dell'ignorante, ti sei proprio rincoglionito, cioè proprio non capisci le cose. Ma che cazzo vuol dire la caccia all'asintomatico, cazzone che non sei altro? Ma porca puttana, ma è possibile che dopo 7 mesi non hai capito che un cazzo di asintomatico è più pericoloso del sintomatico perché va in giro a contagiare e nessuno si accorge che è contagioso? Ma che cazzo dici? Ma sei coglione sul serio? Fai un favore, vai a fare i bocchini a Sgarbi, a Briatore, a questi qui. Non parlare di queste cose, che proprio non ci arrivi, Cruciano. Non ci arrivi. Poi la tua preoccupazione è sempre che qualcuno deve chiudere l'attività, perché la verità è che a te piace pigliarla nel culo dagli imprenditori. Tu sei uno che gli piace pecoronarsi davanti agli imprenditori e pigliare i cazzi nel culo. Un saluto, Cruciani, di mortacci tua. E comunque, caro Giuseppe, fratello mio, sono sempre più convinto che il nuovo fascismo si chiama politicamente corretto, il nuovo fascismo si chiama Parenzo, si chiama Ciacci, si chiama come tutti quei finocchi rotti in culo che bello. Vogliono per forza avere ragione in qualunque cosa loro dicano. Questa è la vergogna, i fascisti sono loro e rompono i coglioni agli altri. Chi si ha vergogna? Peppino, Parenzo, sei un rotto in culo fascista. E mi tocca dare ragione all'ex grillino palermitano. Il vero fascismo ormai è quello che condanna le parole, condanna il linguaggio, condanna le esternazioni più urticanti. Tutti a guardare, no, la parola, e lì hanno fatto la vignetta col nero. Certo, certo. Porterete questo paese al disastro. Porterete questo paese porterete questo paese alla dittatura della parola, del politicamente corretto. Avete rotto i coglioni. Ma come no? Come non esiste? Esiste. Potete dire, come diceva Borghezio, vaffanculo politicamente corretto. Ma sì, in un memorabile audio. Guarda. Che fine ha fatto Borghezio? Che fine ha fatto Borghezio? Non lo so, vaga tra l'Italia e l'Europa alla ricerca di divise naziste la maggior parte delle volte. Allora ragazzi, io andrei a Carmine dalla provincia di Lecco. Vai, Carmine dalla provincia di Lecco. Dimmi. Ciao, Carmine, ragazzi. Intanto la cosa incredibile è che Mauro Corona, dopo aver dato della gallina a Bianca Berlinguer, ha chiesto scusa. Ah, ma vedi, pensa un po', ha chiesto scusa. E come mai secondo te ha chiesto scusa? Per quale astruso motivo secondo voi ha chiesto scusa? L'ha fatto per i soldi, No, si è reso conto di aver sbagliato. Il gettone, altro che. Ma voi vi rendete conto? Una parola detta in un momento di gallina viene trasformata in un'accusa di sessismo. Uno che è costretto a chiedere scusa. Eh beh, l'ha fatto, però. Chiedere scusa, Marco, perché altrimenti veniva cacciato dalla Rai. Siamo alla follia. Vogliono persone per quel motivo lì, per fare casino. Poi quando fanno casino si stupiscono. Ma vaffanculo, va. Carmine, provincia di Lecco. Eccomi qua. Dimmi, Carmine. Ciao Cruciani, ciao Gottardo, sì. Un po' meno Parenzo. Non ce ne frega niente, grazie, ce ne frega nulla. Buonasera, benvenuto. Tra l'altro, voglio sottolineare, scusami, Carmine, che Heather Parisi, la signora Heather Parisi, che tutti voi conoscete, oggi ha detto che chi è contrario al matrimonio gay è omofobo. Cioè, vi dico solo questo, a che punto siamo arrivati tutti ad applaudire. Sì, vero, le associazioni gay. È normale. Secondo te chi è contro al matrimonio gay è omofobo? Ma che motivo c'è di essere contrario a un matrimonio gay? Ma tu sei impazzito. Cioè, chi è contro il matrimonio gay? Chi è contro il matrimonio gay è omofobo? Potenzialmente omofobo. Che male fa? Chi fa? Tu sei malato di mente. Io parto malato di mente. Ma io sono a favore. Quando io non invado la libertà, certo, no. Ma io quando non invado la libertà di un altro, ma cosa c'entra? Do un diritto a una persona, perché dovrei togliere? Ma se uno è contrario al matrimonio gay, ma quello vuol dire togliere diritti? Ma tu dovresti combattere per dare diritti, non per toglierli. Io sono a favore, ma non sono. E allora? Ma non voglio mandare in galera o arrestare qualcuno che è contrario. Troppo dire che vuole togliere dei diritti. Ma questo, no? È pazzo. No, abbiate pazienza. Sì. Ma perché deve fare notizia cosa pensa Heather Parisi sul matrimonio o sull'omofobia? Anche questo è vero. Cioè, stiamo passando da Fausto Leali a Heather Parisi. Ma che cazzo di paese è? Ricorda che uno che ha una laurea in tasca poi emigra. Carmine dalla provincia. E sono gli intellettuali. Ma adesso non fare il coso, dai. Non fare il precisino. Dai. Carmine dalla provincia. Ormai possono parlare tutti. Possono parlare tutti. Heather Parisi ha la sua legittimata a parlare. Non vale quanto un cattedrato. Sì, però vale come Parisi, un cattedrattico, esattamente. Bravo. Carmine dalla provincia Heather di Heather Parisi, faccia la spaccata. Dimmi. Vado allora. Dimmi. Allora, c'è il figlio, io non voglio parlare di politica, ma di figa. Di figa. Che figa. Oh, bene, bene. Di figa, va benissimo, per carità, siamo qui. Non tardiamo in questo, sì. C'ho il figlio, che l'articolo gli interessa, ma a 20 anni trattabili, 21 anni, è preso dal calcio, PlayStation, da Netflix, serie TV. Dalla 7, sì, lo capisco. È poco dall'articolo. Cioè, no, a tuo figlio non piace la figa, ci sta dicendo. No, gli interessa l'articolo, ma lo pratica poco. Alla madre va bene così. Scusa, sei separato? Sei separato tu? Sei separato? No, perché separati? No, siamo sposati. Che cazzo, non sono una domanda, amico, ho detto che c'è la lepra. No, sposato. Non ho capito. Tu stai dicendo che a tuo figlio di 23 anni, mi sembra di capire, importa solo del calcio e di altre cose, non si interessa alla figa. Amica, ma parlatene in casa. Cosa vuoi che ti dica? Appunto. Ma io gli rompo sempre le scatole. Alla madre va bene così, Va bene così. Che famiglia è? Ma lei perché chiama la radio? Non avete dialogo tra di voi? Parlatene tra di voi, non chiamate la Zanzara. Perché comunque mio figlio vi ascolta, magari una vostra parola. Bella figura, cioè, tu stai dicendo una cosa molto semplice. Tuo figlio, stai facendo quasi un appello. Figlio mio, bravo, non seguire troppo il calcio. Impegnati, non seguire impegnati troppo, che ne so, la PlayStation, non so che cazzo fa oltre il calcio. Netflix. Netflix, quello che la 7 in onda. No, la 7 no, se ne sbatte i coglioni della 7. Guarda Netflix, no, sì, come si permette lei? Ma maleducato da un maleducato. E invece, come si permette? E invece pensa, non pensa alla figa. Allora, amico mio, bravo, che sei all'ascolto. Bravi. Ho capito, bravo. Però bravo. Adesso, tu sei il padre. Perché... No, domanda al padre, perché qui bisogna approfondire la cosa. Tuo figlio si rifà le sopracciglia? Usa i jeans, no, quelli. No, cosa c'entra questo adesso? Cosa c'entra? Si depila? Ma cosa c'entra? No, è normale, per quello, è normale. È normale. Perché se fosse gay sarebbe anormale, non ho capito. È normale. Non ho detto questo. Comunque, okay, ragazzi, la cosa incredibile è che oggi il governatore del Mondo De Luca, non so se abbiamo gli audio, forse sì, forse no, cosa ha fatto? Vuole richiudere tutto. Cioè, se aumenta i contagi, vuole richiudere tutto. Beh, è popolare, in Campania è popolare. La roba da pazzi. È stato votato anche per vuole questo, anzi, affossare, certo, l'economia praticamente. Ma Alberto da Milano. Le scuole in affossare sì, tutto. Alberto da Milano, dai. Dimmi, con questi dati sulla morte, sui morti e sui ricoveri, chiudere le attività, chiudere la gente in casa, significa affossare tutto. Io non condivido, ma lo hanno rivotato anche per questo. Distruggere l'Italia. Alberto da Milano, vai Alberto. Salve, pronto? Dimmi Alberto, dimmi. Pronto. Volevo parlare del fatto dei ragazzi che non perdono la virginità a 30 anni o che comunque non è... Sì. Non lo fanno per 20 anni. Grande filone, io... sì, grande filone. Sì, anche sì, tu no, appartieni a questo nucleo, no, di persone. No, io ho 20 anni e anzi devo dire forse è la cosa opposta. Io lo voglio fare sempre. Vabbè, allora qual è il punto? Perché, bravo, perché hai chiamato? No, no, appunto per dire che secondo me, cioè, mentre come diceva la persona di prima, a suo figlio piace da morire il calcio, non gli piace, piace la figa. Invece a me piace da morire. Ma quello chi se ne frega. Allora poi andiamo avanti. No, non volevo dire praticamente quello. Antonio da Verona, vai a fare in culo. Antonio da Verona, vai. Ciao Crox. Dimmi. Ascolta Crox, voglio dare 100% ragione al Gottardo. Ma sul discorso cosa? Dei calciatori, sui calciatori di merda che sparano e non ne prega un cazzo. È chiaro, ma sono una piaga. Allora, mo ti dico questa, Gotta. Mo ti dico questa, Alberto. Allora, io sono a Verona, no? Siccome mo c'è mia moglie che è incinta, la mattina mi sta accompagnando lei al lavoro. Allora? Mi accompagna al lavoro ieri mattina verso le 6. Perché la moglie è incinta, la accompagna al lavoro? Scusa. Perché sono con una macchina sola, allora gli lascio la macchina a lei. Ma saranno cazzi suoi. No, in genere è la moglie incinta che deve essere accompagnata, non il marito. No, che ma è incinta, non è che è handicappata, è incinta. Ma non è educato. Lui sfrutta la moglie incinta. Non è che i suoi porci comodi si va a portare la moglie incinta, ma no, vergognati, no. Vergognati. Ma scusa, ma che c'entra? Abbiamo generato un equivoco. Ma vergognati, hai frainteso, cazzo. Ascoltami, ti ho sì, detto, certo, siccome classico fratellimento. In famiglia c'è una macchina sola, sì. Io faccio il camionista e manco una giornata, gli lascio la macchina a mia moglie e poi io mi faccio i miei cazzi miei al lavoro. Comunque lascio stare questo qua. Scendiamo dalla macchina alle 6 di mattina, sì. Io pesto, come scendo dalla macchina, raga, 2 botte di fucile proprio alle spalle, pum, sì. Giustamente mia moglie ha preso lo spavento. Ma questi qua non è che sono fuori legge, evidentemente lo possono fare, no? Sparano dove possono fare. Perché vieni nel piazzale della mia ditta a sparare, porco Giuda? Perché sei un maiale che non te ne frega niente. No, scusami, Antonio, io posso dire una cosa. Allora, se delle persone sparano dove non possono sparare, è giusto che vengano presi e condannati o puniti, eccetera. Se questi qua possono sparare perché la legge glielo consente, ma che cazzo volete? Cambiate la legge, battetevi per cambiare la legge. A me che me ne frega dove sparano, non è che sono contento se sparano dietro casa tua. Ma va abolita la caccia, dai, va abolita. Rompe i coglioni alla gente. fuori dal calcio. Un po' di buon senso, perché se te sei là col fucile mi stai vedendo arrivare, no, non aspettare cazzo il momento che scendo dalla macchina e butti due botte e tra l'altro vedo anche una donna incinta, che cazzo, dai, ma ragazzi, ti pare che questi ti hanno visto? Questi qua saranno stati mezzi ubriachi, avranno avuto 70 anni, come la media di cacciatori in Veneto, ma non sono ubriachi, la media è quella. Comunque, ma come si fa a dire che i cacciatori sono tutti ubriachi? Ma che modo è? È probabile che fossero ubriachi. Ma siete dei criminali tutti e due. Ascolta, Riccardo da Caltanissetta. Riccardo, vai, Riccardo. Mi sentite? Sì, ti sento, dimmi. Allora, intanto mi duole proprio il cuore a dover dare ragione a Gottardo, l'ha sdraiato. Ma su che cosa? Ma su cosa? Sulla caccia? Ma su cosa? L'altro giorno, ancora? Cacciatori a casa mia. No, ma aspetta. È una merda la caccia, è una merda. Ma come si fa? Vabbè, poi pure tu, Gottardo, ma quella caccia è una merda, il coniglio è troppo buono, dai. Dai, su, se mangi il coniglio poi rompi i coglioni ai cacciatori, dai. Te lo prendi di allevamento. Comunque, arriva sto cacciatore, io per cazzi miei, nel mio terreno. Sì. Oh, ma che fate? Sparate, qua ci sono io col cane, magari mi ha ammazzato pure il cane. Sì. E quello fa, è che stiamo rubando terreno. A me sembra una cosa assurda, siamo l'unico paese in Europa dove ancora si può cacciare. Sì, certo. Si può cacciare a casa della gente, cazzo. Siamo l'unico paese in Europa. Nelle tenute, nei posti riservati alla caccia. Voi dovete sapere che all'inizio degli anni 90 ci fu un referendum con un quorum molto alto, che però non raggiunse il 50% più uno dei votanti, per l'abolizione della caccia dei terreni privati. Ma che cosa sei, Mario? Io sarei per riproporre questo referendum. Mamma mia, ma che sei diventato? L'avvocato del Cosa? Ma chi cazzo sei? Abolizione della caccia, apertura delle case chiuse. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Parenzo, abbiamo bisogno dei talenti che arrivano sui barconi. Ma dove cazzo li vedi questi talenti? Li vedi tu nel tuo salotto, mentre sorseggi un vinello da 200 euro, li vedi tu, questi talenti? Adesso, secondo Parenzo, serve un coraggio da Rambo per prendere un cazzo di barchino e fare l'immigrato clandestino. Parenzo, se tu andassi come turista e uscissi dal villaggio turistico, vieni in Tunisia, paese di mio papà, ti faccio vedere come ragazzini di 15 o 16 anni prendono barche di 3-4 metri e vanno al largo a pescare per mangiare, ok? Barchini di 3-4 metri con un motorino del cazzo e lo fanno per lavorare, per mangiare. Non è che serve essere Rambo e prendere una cazzo di barca e attraversare il mare. Oltretutto lo fanno guardando le condizioni meteorologiche, lo fanno in contatto con gli scafisti. Quindi, come al solito, spari cazzate. Allora, ragazzi, andrei con Emiliano da Bologna. Che gli devo dire a questo qua? Che gli devo dire? Tu che zitto, gli devo dire? Muto. Ma che gli devo dire? Ma ci vuole un coraggio pazzesco per imbarcarsi in quelle carrette del mare e affrontare dei viaggi in cui rischi di morire. Adesso, tu sei il giudice di chi ha coraggio e di chi non ha coraggio? Basta vedere che capito. Tipo di viaggi fanno, no? Ma. Ci vuole un grande coraggio per imbarcarsi su quelle navi. Su quelle navi, sì, bravo. Su quelle carrette Emiliano del mare. Emiliano da Bologna, vai, Emiliano da Bologna. Emiliano, dimmi. Un saluto dalla colonna parenziana Beniamino Andreatta di Bologna. Molto bene, colonna parenziana, incredibile. Esistono anche delle Beniamino colonne Andreatta, sì. Del grande esistono Beniamino delle Andreatta. Colonne di, delle colonne parenziane. Vabbè, vai. Sì, assolutamente. No, io ti volevo chiedere, Giuseppe, se te a questa cosa molto mainstream, e viene ripetuta molto spesso perché ormai è molto mainstream, quale sarebbe? Che ci sia un problema con il politicamente corretto. Ma figurati, ci credi davvero? Beh, sì, mi pare evidente. O è una posa. Mi pare evidente dopo quello che è successo in America. Dopo quello che è successo in America con le statue, eccetera, eccetera. E certamente te è così. Nell'epoca, cioè te conduttore della Zanzara, programma sì, più certo. ascoltato d'Italia, che io ascolto da 10 anni, quindi sono parte del problema. Che è sovrapponibile a quella che una ventina d'anni fa era una provocazione di Radio Radicale, te la ricordi benissimo, allora, no? Nell'epoca in cui accendi la televisione ci trovi dei invasoni tipo in prima serata, che è uno che 10 anni fa l'avresti trovato su tipo Stormfront, i siti dei neonazzi, quelli in cui governano di cose che non sa nessuno, in cui se dici che spari alle barche delle ONG vinci le elezioni, ma non dire secondo te il problema il politicamente corretto. Bravissimo. Perché questa cosa ci vedi davvero. Non ho detto, non ho detto che il problema dei problemi è il politicamente corretto. No, ho detto non è il problema, che ci detto, sia una tendenza. Certo, oggi puoi dire qualunque cosa, qualunque follia. È chiaramente il contrario. Assolutamente oggi più la pari grossa, più la dici cattiva. Esatto, tra un po' le elezioni le vincerai a gare di Rutti e secondo parte te che non è vero. Il a parte che non è vero, perché non mi sembra che chi rutta vinca le elezioni, per cui non dite stronzate, non è così, non è assolutamente così. Ma non è vero, non è così, primo questo. Ma non è vero, se, dai, ma cioè, assolutamente no, il non è vero. Più in ascesa d'Italia, il partito più in ascesa d'Italia fonda buona parte del suo consenso sul fatto ma che quale sarebbe il partito più in ascesa? La Lega, quale sarebbe? La Lega, quale la Lega. La Lega. Quale sarebbe che sta perdendo consensi? Ma sta perdendo consensi, se non te la sei reso conto. Ma è più in ascesa da un bel pezzo, non è più in ascesa da un bel pezzo. La Lega, che diceva che le barche delle ONG bisognava sparargli se l'Olanda parte, non avesse o l'Olanda. Senti, amico, benissimo gli parla, amico, questa roba paga. Allora, amico il mio, politicamente scorretto paga. Questa è una stronzata. Ma lascia perdere il consenso. Io sto dicendo un'altra cosa, che ci sia una tendenza a mettere il bavaglio a chi dice, a chi utilizza certi termini, su questo non c'è dubbio. Ma non c'è mai stata così non libertà mai stata di dire delle cose ferocissime come fortuna, oggi. Ma per fortuna. Non solo, ma c'è ma per mercato fortuna. Per le cose feroci. A parte che io oggi sto parlando di un'altra cosa. Sto parlando dei termini utilizzati, non che ci sia la privazione della libertà. Quella qualcuno magari la pensa o qualcuno la sta progettando. Ma al di là è un altro circoletto di, al di là di un circoletto di hollywoodiani che nessuno ascolta e che non hanno nessun rapporto col potere normale, in realtà noi siamo assolutamente nell'epoca dei cattivismi, non del esatto, corretto. Oggi questa è la teoria paranziana che paga, la cattiveria assolutamente. Paga Leonardo da Bari, questa è l'altra cazzata, Emiliano da Bologna, puttanata inaudita. Leonardo da Bari, come se gli altri invece prima c'era la, perché quelli che facevano invocavano lo spettro di Berlusconi, la paura no, di Berlusconi, ma lui dice non una cosa sulla vera, paura, quello, lui dice la una paura cosa dell'uomo vera nero, cioè, oggi ma non c'è nessuna cazzate, censura, ma voi dite le cattiverie e poi diteci Leonardo da Bari, questo è il tema. Dimmi. Ciao, buonasera. Volevo segnalare al padre del ragazzo di 23 anni che probabilmente lui è un ragazzo che viene definito hikikomori, la nuova malattia del secolo. Cioè, quale sarebbe? Cioè, sarebbe che sono terrorizzati dalla vita, si richiudono in casa e passano il tempo lì, anche 6 mesi di seguito senza uscire di casa. Beh, può essere. Un figlio che ha questo problema. Non scopa, ma ce ne sono praticamente tanti, non scopa. Non scopa, guarda solo la televisione, computer, eccetera. Quanti passa anni il tempo, ha? Quanti anni ha? 27 anni. Cioè, 27 anni non c'ha una fidanzata, non tromba, non esce di casa. Esce giusto per portare il cane, casi, per quello obbligo a uscire di casa per portare il cane fuori a passeggio. Ma perché non va da una psicanalista per i bambini, da un neuropsicologo? Ma c'è un'associazione, si chiama Associazione Hikikomori che li segue. Però, come si chiama Hikikomori? Come cazzo Hikikomori, si chiama? Hikikomori, sì. Perché è un problema che si è verificato prima in Giappone, dove c'è una molta selettività nella però società. Scusa, ma voglio capire, tuo figlio, tu ci stai dicendo qui in diretta che tuo figlio di 27 anni sostanzialmente sta rinchiuso in casa, gioca alla PlayStation, non so che cosa, dalla mattina alla sera, guarda videogame, guarda Netflix o le serie, non so quale altra diavoleria, tutto, passa il tempo e se ne fotte di uscire, è rinchiuso in casa ed è disinteressato completamente al sesso nella sua stanza. Ma scusa, non esce dalla stanza se non per mangiare o per andare al bagno. Vabbè, ho capito, però ragazzi, una cioè, di molti ragazzi. Ok, fatevi due domande in casa, no? Cioè, datevi pure delle risposte, sarà pure, cioè, voglio dire, tiratelo fuori, fate qualcosa, ma non ho capito, è vergine tuo figlio a 27 anni? Senza dubbio. Senza dubbio è vergine. Vabbè, ci stai dicendo che tuo figlio è vergine, magari ma il numero di tuo figlio si può averlo? No, che c'entro, perché vuoi dare facciamo un colpo di telefono, perché dacci il telefono, no, lascialo stare perché è molto timido. Adesso ti ho detto che praticamente hanno questi ragazzi il terrore di affrontare la vita, un esame, certo, di uscire di casa. Ma perché ne parli qua? Hanno avuto problemi perché per avvisare al signore che ha questo problema il figlio. Sto avvisando che comunque anche lui dovrebbe verificare che non ne abbia questo problema. Mi scrive ora Dario Vergassola, che è persona molto seria, sì, grande comico. Sì. Allora? Mi dice: andateci piano perché è una malattia molto seria. Sì, dice. No, certo. Sì, certo, Dario Vergassola smettesse di fare il moralista della minchia. Andateci ragione, piano, che vuol dire? Leonardo da Bari ci sta chiamando per dire che suo figlio. Hai ragione, caro Dario. Suo figlio ragione, di 27 certo, anni. Suo figlio Dario di 27 anni è rinchiuso in casa, dentro una stanza. Però evidentemente è una cosa pazzesca. Ma si masturba tuo figlio, Leonardo? Ancora. sì, penso di sì, sicuramente. No, penso di sì. Sì o no, lo saprai? Ci parlerai con tuo figlio o no? Ci parlerai? No, no, beh, no, no. Buongiorno e buonasera. Ma ho capito, come buongiorno e buonasera, amico mio? Ma ci stai dipingendo un dramma familiare incredibile. Un dramma familiare che è come quello del ragazzo di 23 anni. E tua moglie? E tua moglie? No, mia moglie gli impedisce di fare tutto, nel senso che ha paura di esporlo a qualche trauma, e anche per fare idiota di servizi lo inibisce. È la generazione dei social, amico caro, purtroppo. No, bisogna fare una profonda riflessione. Questa generalizzazione della minchia. Ciao Lona. Sui social. Ciao. Chiedo scusa, un momento. Chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. Sei pronto? Sei pronto a chiamare il vero profeta di Dio? Sei pronto o no a chiamare il vero profeta di Dio? Tremo. Il Dio mi ha unto per portare la sua parola di vita eterna a tutti voi. Ravvedetevi e Dio vi salverà. Eliseo Bonanno, portato in televisione dalla D'Urso, adesso lo chiamiamo il vero profeta di Dio from Cerveteri. Sì. Pronto? Sì, mi senti? Mi chiamo Giuseppe Cruciani, come va? Bene. Senti, io sono molto onorato innanzitutto di parlare con colui che si proclama unto da Dio. E questo è molto importante, perché soprattutto sono veramente onorato di parlare con qualcuno che da 33 anni parla con Dio. Ti ringrazio, ma non sono un uomo normale come tutti gli altri. Ecco, normale. Io voglio capire una cosa. Che cosa significa parlare da 33 anni con Dio? Cioè, concretamente, come ci parli? Noi per ora stiamo parlando col telefono, ovviamente. No, beh, noi Dio sì, non parla noi col sì. telefono. Sì. Io non so se tu conosci un pochino la Bibbia, comunque Dio ai profeti, ai figli di Dio ha sempre parlato sì, e sì. si fa sentire anche all'orecchio con una voce comprensibile, parla sì. nel cuore, sì. parla nella mente, parla con visioni, sì. con rapimenti in spirito, come è descritto nella Bibbia tutto ecco, questo. Ma con che frequenza parla con te? L'ultima volta, quando è stato? Quando è successo? Il Signore e i suoi profeti parla in continuazione. Ora, che tipo di messaggi ti dà Dio? Questo è importante, perché tu ti proclami vero profeta di Dio. È stata occultata la verità. Cioè? È stata distorta la parola di Dio. Facciamo un esempio sulla questione del demonio, no? Cioè, tu hai detto che i demoni vagano in ogni luogo. Oggi il demonio... C'è scritto nella Bibbia. Benissimo, il demonio oggi da chi è rappresentato? Possiamo dirlo, sulla terra? Il demonio è la Matrix, perché tutto il mondo giace nel maligno. Siamo stati ingannati tutti. Lo vedi? Il Signore è la verità. Sì. E pertanto io, come è scritto nella Bibbia, caccio i demoni via nella Bibbia. Nel nome del Signore Cristo Gesù, perché queste forze della malvagità hanno ingannato tutta l'umanità, si sono infiltrate nelle menti di tanta gente poi ce ne sono tanti che escono totalmente fuori di te. Ecco, ma com'è che fai tu per scacciare il demonio? Scusa, ma me l'hai fatto prima, com'è che lo fai? Ripeto, ti caccio via nell'abisso nel nome del Signore Cristo Gesù. Perché i figli di Dio sono stati mandati dal Signore Cristo. Benissimo. Allora, mi rifà per favore solo il via, perché mi servirà per gli ascoltatori. Mi rifà per piacere solo il via. Me lo rifà per piacere, che vi serve per gli ascoltatori. Per il culo. No. Se inizia a fare questi comportamenti così, io chiudo tutto. No, non c'è nessuna presa per il culo. Il demonio si è infiltrato ovunque, dici tu. È il principe di questo mondo. Tutto il mondo giace nel maligno. E la madre che ha ingannato tutta l'umanità. Dunque possiamo dire che governa un ordine mondiale guidato dal maligno? Possiamo dire questo qua? È dinanzi agli occhi di tutti, non riesci a vederlo pure tu. Ma anche il coronavirus è qualcosa che è, diciamo, guidato dal maligno? Cioè viviamo in una... Il coronavirus è un inganno per poter aprire le porte al nuovo ordine mondiale. Lo vedi che interessante questa roba qua, molto interessante. Volevo chiederle due cose, mi scusi, sono Parenzo e la ringrazio per questo contributo che sta dando alla radio, grazie intanto. Le volevo chiedere al volo solo questo: il maligno secondo lei si è impossessato anche della Confindustria, o per ora la Confindustria ne è rimasta, come dire, assente? È tutto sotto il dominio. Porca miseria, questo è brutto. Delle anime nostre. No, ma quello. Il nome è Satana. Satana ha svariate sfaccettature presentarsi e ingannare la gente. Satana significa l'avversario. Tu sei uno di quelli che dice la mascherina è. Guarda una cosa. Tu lo sai, abbiamo fatto un esperimento, un video. Sì. In questo video si fa vedere, noi abbiamo comprato un rilevatore di anidride carbonica e praticamente abbiamo fatto la prova. Ora il limite massimo dell'anidride carbonica sopportabile è il limite massimo 1500 parti per milione di anidride carbonica. Sì, e invece che è successo? Si è arrivati dopo qualche minuto a respirare 10.000 parte per milione di anidride carbonica. Cioè, praticamente ci stanno avvelenando. Molti bambini sono pure caduti a terra a scuola. Sì. Molti hanno avuto capogiri. Sì. E altri scimuniti che camminano pure in macchina da soli con la mascherina. Dunque, ci stanno uccidendo, ci stanno avvelenando. No, è l'uomo che si sta avvelenando da solo perché è cretino. Cioè, tu dici, c'è una sottomissione, c'è una specie di sottomissione di schiavitù a questo nuovo ordine mondiale che ci impone la mascherina per fare cose, per diminuire la popolazione mondiale, per ucciderci, per cosa? Ah, vuol dire che l'hai capito? No, lo so, sto chiedendo. Hai detto bene. Come hai detto bene? Ma scusa, da chi è guidata questa cupola? Da Bill Gates, per esempio? Anche da Bill Gates. Non solo da lui, tutti i potenti della Terra fanno parte del clan. Però sono pure divisi tra di loro e tutti ci fanno tutta questa sceneggiata, persone che sono decedute a causa di incidenti stradali catalogati come morti per coronavirus. Ma, ecco, io quello che voglio sapere da te, ma di queste cose Dio ti parla o no? Cioè, qualche messaggio su questo te lo dà o no? Perché questo è interessante. Me ne parla, me lo conferma e lo posso dimostrare. Oh, questo. Benissimo, io questo volevo sentire. Un'altra cosa che ti voglio chiedere, il profeta di Dio, cioè Eliseo Bonanno, che cosa ne pensa dell'omosessualità? Perché questo è molto interessante. Voglio capire se qualche volta. Non ti dico quello che ne penso io. No, devi dire quello che. Quello che ne pensa Dio e che è scritto nella Bibbia. Cosa dice? Hai mai sentito parlare tu di Sodoma e Gomorra? Sì, come no? Certo, assolutamente. Non ho niente da risponderti. Cioè, tu se pensi. Sai cosa ne pensa Dio? No, voglio mio Dio. Tu pensi che l'omosessualità sia una perversione, se sia una cosa contro natura, se Dio ti conferma nelle tue conversazioni. Scusa, non è contro natura? Non lo so, è una domanda che ti faccio. Perché mai dovrebbe essere contro natura? Scusa. Faccio la domanda? Sì. Perché la parola di Dio parla di uomo o donna. Sì. Ma c'è il diavolo dietro, questo è importante. C'è Babbo Natale dietro. No, Babbo Natale non credo che ci sia. I rapporti tra gay sono marchiati dal demonio? Ma tu la Bibbia l'hai mai letta o la tieni sul comodino come il Babbo? La leggo a spezzoni, cioè la leggo ogni tanto, l'ho letta, non è che la conosco. Allora cerca nella Bibbia cosa ne pensa il Signore e cosa ha fatto a Sodoma e Gomorra. Beh, cosa ha fatto? Ha fatto delle cose, come sai, molto gravi. Cioè, secondo te dovrebbero essere bruciati? Non ho capito. No, secondo me è il Signore che decide. No, ma ho capito, ma il Signore deciderà qualcosa. Fosse lui che governa. Qualcosa. Il Signore sta tornando malvagio dell'ira di Dio sta per manifestarsi sulla faccia della terra. Scusa, se torna Dio... Se si vuole sposare può fare pure il matrimonio di gruppo, faccia quello che vuole. C'è chi amoreggia con i cani, con gli animali, con i porci. Scusa, ma allora non ho capito. Se torna Dio significa che i gay a un certo punto non possono più sposarsi, non possono più stare insieme perché sarebbero condannati. Se torna Dio, vedrete l'ira di Dio sulla faccia della terra. Perché il Signore ha creato l'uomo donna. Normalmente anche gli animali, tranne qualche eccezione forse di sodomia anche per gli animali, gli animali stessi per natura si sentono attratti l'uno verso l'altro. E dunque se comandasse Dio, se tornasse Dio a comandare su questa terra, cosa ne sarebbe dei gay? Questa è la domanda, profeta. No, questo ve lo dovete chiedere voi, non solo i gay, ma tutti i peccatori, tutti coloro che fanno cose abominevoli al cospetto di Dio, i religiosi, i pedofili, i sodomiti. Sono in abominio al cospetto di Dio, fanno le orge, violentano i bambini, li uccidono, bevono il sangue per prendere l'adrenocromo, pure questo fanno, le loro tenere carni, che pensi che ne pensa Dio? Ma non ho capito. Ma tu credi veramente che ci sia qualcuno che prende il sangue dei bambini per diventare più giovane? Credo. Allora lo sai a che serve l'adrenocromo? Lo so, ma questa è una teoria importante, è una teoria gravissima. Posso fare una domanda a questo signore, però? Perché... È una favola. No, la pedofilia è una favola, i sacrifici umani sono una favola. Però scusa Alicia, ti faccio una domanda personale. Io ogni tanto ho fatto delle orge, anch'io verrò punito? No, te la vedrai con Dio. No, appunto, cioè, nel mondo di Dio... Non sono io che ti devo assolvere. Ma come no? Sei l'unto di Dio, sei il profeta di Dio. Io sono l'unto di Dio, ma non chiamato ad assolvere o condannare nessuno. Ho capito, però... Ma esporre la parola di Dio, caro Giuseppe. Ecco, amico mio, però io sono un peccatore, ho fatto delle orge, sono uno che ha dei rapporti plurimi. Che cosa succede se torna a Dio? Sarò massacrato, sarò messo a rogo? Se si pente, se ritorna in se stesso, sì. E capisce che queste cose non sono gradite a Dio, può essere perdonato da Dio. E se invece uno non si pente? Se uno non si pente? Sarà vedrà con Dio. Senti, ma questa storia del microchip e di quello che abbiamo noi sulla mano destra e sulla... Voi sulla mano destra? Io non ce l'ho. Cioè, che cosa? Il segno del diavolo? Te lo sei fatto mettere tu questo microchip? No, io non ce l'ho, non lo so se c'ho il microchip. Che cos'è sto microchip nella mano destra e sulla fronte? Che cos'è? Il discorso, loro, tu sai che cos'è la rete neurale? La rete neurale? No, non lo so. È quella che stanno per attivare globalmente col 5G, 6G e 7G. Pure. È il controllo totale delle menti e delle cose. Ma questo Dio te lo dice? Se leggi pure i giornali, lo sai. No, ma ho capito, ma Dio, ma tu sei il profeta di Dio, non è che puoi leggere i giornali, devi parlare solamente con Dio. I figli di Dio che non sono rincoglioniti, stavo dicendo una parola. Rincoglioniti, no, lo puoi dire, che non sono rincoglioniti, sì, lo puoi dire. Ah, no. Lo volevo dire perché qualcuno... Dillo pure. Ecco, che non sono rincoglioniti, mi hai autorizzato tu, eh? Sì, assolutamente. Che non sono rincoglioniti e lobotomizzati, sì, attraverso tutto quello che respiriamo un po' tutti. Sì, sì. Ovviamente le scie chimiche non esistono. No. Esiste il Babbo Natale, la Befana. Benissimo, se non sono... Le scie chimiche, questa è la convinzione di molti, quelli che seguono le religioni, sì, sono stati sedotti e ingannati. E hanno mandato i bambini, sì, ai religiosi per essere sodomizzati e violentati e alcuni pure uccisi. Capito Parenzo? Come i bambini spariscono? No, io avevo solo una domanda da fare a questo signore perché ho ascoltato in silenzio, sì, e anche cercando, sì, di capire. Mi sono molto preoccupato per questa presenza del diavolo. Una domanda di fondo. Quando ha smesso esattamente di prendere quei farmaci che le avevano consigliato di prendere? Quando è che ha smesso? A chi, sì, stai parlando? No, a lei. Non trattare così Eliseo. I farmaci non si interrompono così di botto, perché se lei li interrompe... Ma io prendevo i farmaci. Direi sì, è un psicotico per forza. Come lo consideri Eliseo Bonanno dopo questa conversazione? No, Eliseo Bonanno lo considero una persona bisognosa di riprendere quella terapia che quel bravissimo psichiatra gli aveva consigliato. Ma tu, deficiente. Come si permette? Quale terapia? Dove è scritto? Quale prove hai? Scusi, lei ha delirato. Lei quali prove ho? L'intervista a Radio 24 alla Zanzara è una prova che lei andrebbe immediatamente ricoverato nella migliore struttura ospedaliera. Zanzara, mi spiace, me ne metto sotto i piedi. Bravo Eliseo, bravo. Bravo Eliseo, attaccalo questo qua che è in preda al diavolo, in preda a Belzebù, Parenzo, sì. Ma quale diavolo? Ma non c'è il diavolo? Il vostro numero di telefono finisce per 666. Che cazzo dici? Ma riprenditi le pastiglie! Curati! Zanzara, vattene a fanculo tu e Belzebù. Bravo. A lei. Perché con i deficienti c'è poco da fare. Bravo. Pazzesco. Eliseo, bravo. Picchia duro su Belzebù. Devi picchiare duro su Belzebù, cazzo. Certo, me lo metto sotto i piedi a Belzebù. Vai, alla grande. Il Signore ha dato, sì, ai suoi figli autorità di calcare serpenti e scorpioni. Bravo Eliseo, alla grande. Quelli, ma che pensavi che mi mettevi alla gogna pure tu? Ma io, a me che cazzo me ne frega, avanti tutta. Io sono contro Belzebù come te. Grazie profeta, ciao. La Zanzara. Cruz Luciani, mi avete deviato completamente. Io sono un medico, è entrata una paziente, la prima cosa che mi dice fa: dottore, oggi sono piena di dolori perché ieri ho fatto equitazione e non ho fatto altro tutta la visita, a pensare alla teoria di Gottardo, mi immaginavo Gottardo là accanto. Siamo al top. Le teorie gottardiane, le teorie gottardiane comprovate dalla realtà. Bah, comprovate quindi sono dalla dei realtà. Teoremi. La vogliamo sono riassumere questa teoria dopo aver sentito 12-13 minuti di intervista favolosa al mitologico Eliseo. Eliseo, allora, Bonanno. Io non ho mai sostenuto che tutte quelle che fanno l'equitazione siano donne particolarmente vogliose. Però beh, insomma, tutte, sì. Le donne tutte le donne, no, il corollario è diverso. Tutte le donne molto vogliose che io ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscere, avevano un minimo comun denominatore, facevano equitazione. Beh, oddio, adesso. Cioè, detta così, quindi sembrerebbe di assistere a un grande trombeur de femme, il signor Gottardo. Nella realtà, cioè, raccontata così, uno dice: realtà, caspita, il bello la della radio, il bello della radio, no? La voce, dietro una voce si nasconde un fisico meraviglioso. Guarda, io volevo ringraziarti. Poi va a vedere, io infatti volevo ringraziarti perché sì, la mia amica Maria Elena Fabi, che saluto da queste frequenze, cognomi, è venuta qui ad inaugurare la stagione al Plaza di Abano, che mi ospita, appunto perché mi ha cercato su Instagram su tua indicazione. Ma non diciamo cazzate, Marco e quindi da Roma, dai, io Marco ringrazio Parenzo per seminare follower su Instagram. Che Marco poi da Roma, Marco da Roma, eccomi. Dai, dimmi Marco, eccomi. Dimmi. No, volevo fare una piccola precisazione al profeta della domenica, Elia, là, come si chiama? Profeta, no, il profeta di Dio, Eliseo Bonanno. Con calma, dimmi. Con calmissima. Leggete la Bibbia, perché la Bibbia è un grandissimo libro, ma c'è scritto ben altra cosa di quello che dice Eliseo, perché c'è scritto che il profeta, come dice lui, non si chiamava Dio, ma si chiamava Yahweh. Vabbè, allora adesso noi non possiamo fare una lezione sulla Bibbia qua. Chiama Biglino e fatti spiegare la Bibbia. E c'è scritto che bruciava i bambini sopra i 9 anni perché il fumo lo calmava. E allora? È la Bibbia. Allora che dice che viene Dio, ci punisce, ma che cazzo sta dicendo? Quello sta dicendo, sta annunciando l'arrivo di Dio che punisce tutti i peccatori, tra cui i sodomiti, eccetera, eccetera, il nuovo ordine mondiale, eccetera. Bill Gates, che ti devo dire? Dell'autobus da 2000 anni, aspetta Dio. Gaetano da Torino, vai, Gaetano, avanti tutta. Dimmi, Gaetano. Buonasera. Parenzo, buonasera. Buonasera, gente che telefona. Ascolta, mi crociati, volevo dire che sei un cornuto. Tu e quel cornuto di Gottardo. E perché, scusa? No, come mai? Te lo spiego subito. Secondo me è cornuto anche Parenzo. Ma a me va benissimo essere cornuto. Parenzo è una delle poche persone che stimo. Grazie, Gaetano. Tra voi tre siete... Allora, tu, Luciano, mi fai schifo, fai schifo. L'altra sera sentivo il podcast, hai preso quel culo. Sì, perché in diretta non devo sentire. No, ma il podcast va benissimo anche come pronuncia, va benissimo il podcast. Io adoro le pronunce irregolari, dimmi Gaetano, dimmi. Ma come mai ansima questo uomo? Non lo so, ansimo perché sono in una salita e sono grassone come te, per cui ansimo in salita. Quanto pesi, Gaetano? È 120 kg. 120 per quanto sei alto? Cazzo, 1,97 1,97 120 sono tanti. Magari. Vabbè, Gaeta, ma che vuoi? Magari. Spiegami. Allora, hai preso per il culo quel ragazzo che non faceva sesso da 3 anni. Sì. Mi ricordo l'altra sera l'hai preso per il culo. Mi hai detto che è malato, che non sta a posto. Sì, c'è anche un ragazzo... sì, è normale. Un ragazzo che... Evidentemente anche tu lo scopi da anni, è evidente, No, non ti preoccupare, non parliamo di me, parliamo di quel ragazzo che... Evidentemente qualche problemuccio c'è anche tu. La mamma tentava il suicidio. Sì, poi alla fine si è suicidata. Ma fammi capire. Ma guarda che non è lui che ha chiamato, quello è un altro che ha chiamato criticandomi e sostenendo che a lui è morta la madre, eccetera, eccetera. E non scopava da 3 anni. Te l'ha detto. Io non faccio l'amore da 3 anni perché mia mamma tentava il suicidio e tu lo prendevi per il culo. Gaetano, a te è successo qualcosa di simile? È successo qualcosa di simile? Sì, può capitare che tu sei dalle mie parti si dice. Un tazzo non vuole i pensieri. Cosa vuol dire? Vuol dire che siete problemi. Diciamola chiaramente, non scopi da quanto tempo non scopi, Gaeta? Diciamola chiaramente. Diciamola chiara, non giriamo intorno. Non ci giriamo intorno. Con questo ansimare, ti stai portando dietro un bel peso. Sei di quelli che 120 kg, l'uccello manco ti ci vede probabilmente. No, non ti preoccupare, non si vede, ma non si vede a me, non si vede nemmeno a Gottardo, sicuramente. È dimagrito. Posso affermare il contrario. Sì. Vabbè, Gaeta, che vuoi? Non ho capito. Niente, mi fate schifo. Ma è possibile che una persona, persona chiama. Ti faccio schifo, vabbè, non niente di nuovo, insomma. Ma no. Niente questo, di nuovo, ti faccio schifo. Mi hai fatto schifo come hai trattato quella persona. Vuoi fare? La zanzara è fatta così, mica porta a porta. Ci sta anche lei, merda. Ma è normale prendere per culo una persona la mamma si è ammazzata. Ma no, quello che c'entra, nessuno ha preso per il culo perché la madre è morta. Non dire cazzate. Questa qua è sangue e merda, non è porta a porta. Se vuoi sentire un qualcosa di soffice, edulcorato, vai a sentire, Radio Capital, qualche altro radio, dai, su. Io mi ricordavo quanto. Vuoi sentire le parole dette bene? Vuoi sentire i discorsi politicamente corretti, in punta di. Tutti senza esagerazioni, oddio, vai su altre radio. Che problema c'è? Vi ricordate Siffredi? Siffredi, gli era morta la mamma e lui candidamente in radio disse: no, io mi sono scopato l'amica di mia mamma durante il funerale. Era un pompino. Era un pompino. È uno schifo. Posso dirti una cosa? La cosa che più, ripensandoci un secondo, la cosa che più mi scandalizza di te dopo 10 anni è esattamente questa qua, no? Tu inviti il mostro del Circeo in trasmissione, no? Quello racconti, dice: io sì, l'ho fatta a pezzi, avanti all'attacco, dilla tutta. Cioè, tu sei così. Io ci sono ripensato. La cosa agghiacciante di te è esattamente questa. Uno dice le cose peggiori, e tu: molto bene, avanti, all'attacco. Come l'attacco? Il mostro del Circeo ha massacrato delle persone, violentato. Ciao. Allora, l'anti-juventinismo militante di questi giorni è impersonato da Carletto Alvino. Muto sulla Juve. Giornalista napoletano, chiamiamo. Pronti? Carlo? Sì? Sono Cruciani, come andiamo? Grande Peppino, number one. Sei scatenato, Carlo. Bravo, Alvino, bravo, sono Parenzo. Questa volta hai perfettamente ragione, se posso essere. Grande Parenzo, mi dispiace, ma è sempre la solita canea anti-juventina. Tu dovresti dire: in quale squadra? E mandare l'inno della Juve, questo dovresti fare. E in quale squadra? Ragazzi, ma sapete la verità qual è? Quando il bambino è pieno sporco di Nutella, il papà va vicino al bambino e gli chiede: ma che fate? Hai preso la Nutella? Io, quando mai? È tutto sporco di Nutella. Questo è le mani nella marmellata, sempre e comunque. Ragazzi, ma cosa vuol dire? Sempre dell'idea che la Juventus sia una squadra di ladri, questo è il punto. Il corruttore chi è? Il corruttore. Ma non lo sa nessuno chi è il corruttore, lo sai tu. No, lo scoprirà un grande magistrato italiano, Cantone, lo scoprirà Cantone. Ah, sei contento di avere Cantone che indaga sulla Juventus, sei contento? Un magistrato che ha due coglioni sotto che sono enormi, di una forma geometrica che ancora non hanno inventato. Ma tu sei convinto, al di là delle indagini, che la Juventus abbia corrotto qualcuno per far avere la cittadinanza a Suarez, è il punto. Lo diranno le indagini, sta di fatto che ogni qualvolta esce fuori qualcosa di poco chiaro, c'è sempre e comunque la Juventus alle spalle, sempre c'è Calciopoli, la Juventus, e questo perché? Perché nel DNA ma poverini, diciamo la verità, sono anche sfortunati questi della Juve, organizzano delle cose fatte sempre per bene e alla fine c'è sempre qualcuno che parla, qualcuno che esce fuori. Qualcuno ha organizzato, secondo te, qualcuno ha corrotto. Dilla chiara, dilla tutta, non avere paura, schiena dritta, Carlè. No, ditemi chi ha organizzato. Io ancora non riesco a... Chi ha organizzato questo viaggio lampo in Italia di Suarez? Non lo so, sai tutto tu. Per quello che hai già letto, andresti subito alla Juventus a processo, subito, immediatamente? La Juventus non avrebbe proprio ragione di esistere nel calcio italiano. Ma qua, vabbè, adesso questo perché? Mi sembra eccessivo. Perché? Però. Perché? Perché nel motto della Juve c'è l'antisportività per eccellenza. Quando la Juve cambierà motto, e allora io cambierò idea, finché la Juve terrà quel motto, che è un motto antisportivo, diseducativo, è la morte dello sport, quel motto della l'unica Juve. Cosa che conta è vincere, è normale, quello riguarda tutti, se non gli ipocriti. In dispregio delle regole. Ma chi l'ha detto in dispregio delle regole? Ma tu hai detto che non ha ragione di esistere, per te non esiste, tu la cancelleresti dai campionati, questo è il punto. Ma allora, finché non ci sarà una trasparenza, un modo di agire diverso, pulito, onesto e trasparente, questa è la verità. Vabbè, sei il solito, non cambi mai, sempre anti-juventino. Guarda, io faccio tipo per due squadre, prima per il Napoli e poi per le squadre che giocano contro la Juventus. No, secondo me possiamo anche invertire l'ordine. E primo per le squadre che giocano contro la Juventus e poi per il Napoli. Ma che cosa sarebbe successo se fosse stato coinvolto un giocatore del Napoli? Avresti fatto 50 trasmissioni. Te lo dico io, Parenzo. Ci sarebbe stata una puntata speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa, con anche della Zanzara, a mostrare anche pazzesco. Io ti chiedo scusa a nome della Zanzara e mando un abbraccio a tutti i tifosi del Napoli che sono degli amici. Ma vai a fare e dico evviva, evviva, evviva. Grazie ragazzi. Scusa, non ho capito. Ma secondo te la Juventus controlla pure l'informazione, magari, no? Perché hai detto che la Juventus controlla pure l'informazione, potere. Ti ribalto la domanda: cosa non controlla in Italia la Juventus? Vabbè, adesso questo è esagerato. Ma cosa non controlla? Ma che cazzo è il coso? Ma che è il nuovo ordine mondiale? Questo che cos'è? Esagerato. La Spectre? Che cos'è la Spectre? È il James Bond, però ricordati, perché se loro sono la Spectre, io sarò sempre il James Bond, la voce contraria. Dai, ma vaffanculo, va. Ciao, Carlo. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta La Zanzara. Io pagherei per vedere il signor Manuel Scalco che si incula Parenzo. Hai due ragazzi nati e cresciuti con il culo nel burro? Volevo dire che la ciulata proletaria è veramente dura. Non avete idea. Dovreste provare prima di giudicare, se no è un po' come parlare della fame del mondo quando si ha frigorifero pieno. E comunque tutti gli amici sono in questa situazione. A meno che non ci sia a casa, allora se ne fanno poche, fatte male, col prezzo che bisogna pagare e che voi ben conoscete, visto che avete dei matrimoni falliti alle spalle. Fanculo. Le norme anti-Covid che imperano anche in questa azienda, caro Parenzo e caro Gottardo, imperano anche in questa azienda. E noi le rispettiamo, ovvio. Sì, certo, per forza, che dobbiamo fare. Io guarda, qui tu non mi puoi vedere, ma insomma io ho il disinfettante che me lo porto da casa. Boh, disinfettante. Pulisco. Serve una sega, diciamoci la verità. Poi pulisco la postazione. Sì, pulisco la postazione, no, dove sono. Io no. Beh, tu sei zozzo di già di tuo, quindi beh, sai. Appunto, dovrei... Il virus ti respinge, sì, il virus ti vede. Il virus quando mi incontra, se mi incontra, si indigna. È come quando Sgarbi dice della cocaina, quando incrocio la cocaina, la cocaina si eccita. Così dice Sgarbi. Il virus, grazie a Dio, è la tua fortuna. Può darsi, sì, mi tocco i coglioni anche a pelle. Ecco, fai come? Cioè, per Grillo, non c'è il Covid, non c'è. Abbiamo sconfitto. Allora, enorme anti-Covid ci costringono a un esercizio molto complicato, perché ho qui di fronte a me un signore già ospite di questa trasmissione, uno dei divi dell'hard di oggi, seppur molto giovane, nemmeno 30 anni. Max Felicitas, applausi ciao ragazzi, a Max. Ciao ragazzi, Max, buonasera direttore, applausi. Buonasera. E invece dovevamo avere dentro questo luogo, ma pare che non ci possano essere più di due persone dentro lo studio, ti rendi conto la follia? Meno male. Uno è distanziato. Comunque, alle mie spalle, in tutta la sua bellezza, nonostante, io dico, i suoi anni, se li porta benissimo, ha un anno meno di me, è del 1967. Dunque una che ha fatto la 1867. Storia del... No, 1967, che 800? Di qualcosa, Luana, a questo stronzo. Di qualcosa a quello stronzo di Parenzo che dice che sei del 1867. Diglielo, cazzo, no? Ci sei o non ci sei, Luana? Ci sei o non ci sì, sei? Sì, ci sono, ragazzi. Allora mandalo a fare in culo, no? Mandalo a fare in culo subito. 1867, Luana Borgia, applausi anche per Luana Borgia, vai. Applausi, applausi. Signora Luana, io allora, se avessi portato a casa una fidanzata e avrei detto guarda papà ti presento Luana, probabilmente avrebbe cambiato la serratura di casa, probabilmente. Jacopo da Modena, vai, Jacopo da Modena. Allora ciao, buonasera, io volevo fare una domanda al turbo globalista prezzolato da Elite Parenzo. Dimmi, dimmi. Allora, siccome tu fai anche molto trash televisivo e ormai negli ultimi anni sia in televisione che in politica si parla sempre solo di immigrazione, gira sempre tutto dietro all'immigrazione, cioè si parla sempre solo dei poveri immigrati che arrivano in Italia e quello sempre? Che... quello che fanno, quello che combinano, la politica in generale gira attorno a chi vuole i porti aperti e chi vuole i porti chiusi, e molti programmi televisivi. Allora io vi chiedo, ma non sarebbe il caso di fare l'attenzione su chi destabilizza questi paesi? Perché sono poveri, chi continua a renderli poveri? Vabbè, ciao Jacopo, buonanotte, ciao, ciao amico, ciao, ciao. Allora, la notizia è questa, la notizia è questa. Luana Borgia, che saluto ancora una volta, Luana, ciao. Allora, ciao. Grande protagonista del porno del passato, aveva smesso di fare porno. Voi avete mai visto un film con Luana Borgia? No. Alberto, tu non l'hai mai visto? Alberto, sì, tu hai visto un film con Luana Borgia? Sì. Con una li guardavo con una mano sola, però. Mamma mia, che banalità! Mamma mia. È di una volgarità. Mamma mia, vuole di Proust. La mia amica Luana Borgia vuole tornare a fare porno, è vero, Luana? È vero. Ma non ho capito. Vabbè, come ma cos'è che ti manca? Cos'è è che fin ti dell'orrore, manca? È fin dell'orrore. Mi manca il sesso, e poi mi manca specialmente l'anale. Cioè, ti manca l'anale? Ti manca la... Beh, okay, l'anale lo puoi fare anche ma nel poi, ascolta, sì. Abbiamo qua presente Max in studio. Sì, sì. Quindi sì. Potremmo fare una scenardi e Max. Solo che lui, è che lui non è molto amante dell'anale. Sì, è vero, non è molto amante dell'anale. Infatti, la cosa è questa: che notizia incredibile! Che Max Felicitas, non è un amante dell'anale, lo sappiamo. Ma per quale motivo tu non ami l'anale? Che è una. Vogliamo ripeterlo? Allora, io ho avuto da quanto tempo è che non fai l'anale? Io da 2 anni che non metto il mio cazzo in un culo. Cioè, posso dire che non trovo questa notizia sul Corriere.it? Come mai? Io vi chiedo scusa. Ma sto compulsando tutti i siti. Da 2 anni non metto un cazzo nel culo. Sto davanti a me aperti nel monitor di servizio tutti i siti. Sto cercando di capire come mai hanno preso un buco queste autorevoli testate. Devi sfogliare meglio, Parenzo. No, meglio. Io ho avuto delle brutte esperienze. Sì. All'inizio della mia carriera chiamasi merda. Cioè, io mi ricordo che ho lavorato per delle produzioni per cui l'anale era il massimo. E quindi praticamente io all'inizio della mia carriera non sapevo cos'era la figa. Carriera. Cioè, mi facevano fare solo video in cui mettevo il cazzo nel culo. E invece hai avuto brutte esperienze. Brutte nel senso esperienze. Che spesso ti ritrovavi col pisello sporco. Non diciamo. Era spesso, era sempre. Ma era che orrore! Sempre. Ma mi fa che schifo. Io mi ricordo, no, che ogni io lavoro ha gli attrezzi adesso. Del mestiere, no? Sì. Qui tu hai il microfono, le cuffie. Io mi ricordo che quando facevo sti video avevo a fianco al divano, da dove scopavo, avevo un barattolo enorme di liquido lubrificante, tipo da 5 litri, sì, sì. E le salviettine, perché ogni volta che lo tiravo fuori dovevo pulirmelo con la salvietta quella da bagnate dai neonati, perché era marrone. Che schifo, ti prego, basta! O mettere, capito, poi rimettere il lubrificante. Però... Quando poi, perché dopo un po' uno si incazza, no? Perché dici, cazzo, fai sto lavoro, pulisciti il culo prima di girare. Certo. Allora, ogni tanto, quando lo tiravo fuori dal culo, era marrone, lo mettevo subito in bocca alla tipa, no, tipo per punizione. No, questa è terribile. Allora, però voglio capire una cosa. Come si fa adesso a tornare a fare scene del genere con Luana? Perché Luana è un amante dell'anale. Cioè, se vuoi essere tu l'iniziatore della nuova vita nel porno di Luana Borgia, è complessa la storia. Allora, io ti dico, perché ci siamo visti sotto qua alla radio, no, prima di salire, quando l'ho vista sono rimasto folgorato dalle sue tette, cioè mi veniva da mettergli la testa in mezzo alle tette, sì. Non so perché non l'ho ancora fatto, e devo dire la verità, per lei potrei fare un fioretto e rifare il mio primo video anale sul mio sito, perché non ce ne sono altri di anale. Cioè, tu hai due anni che non fai anale, zero. Ma neanche nella vita privata. Nemmeno nella vita privata. Nemmeno nella vita privata. Cioè, sei veramente all'opposto di quella che è la nuova tendenza. Ormai l'anale è una cosa abbastanza scontata, anche se vai con una donna nel privato, no? A Gottardo sarà successo recentemente di andare con qualcuna. E io penso che l'anale sia... Ragionando così, in teoria potrebbe anche essere successo. Invece, Luana senza anale non sa stare, diciamo la verità, o no? È vero, per me in un rapporto è importante l'anale. Soprattutto l'anale, o no? Soprattutto c'è chi dice che senza culo non quindi è amore, con Luana. Con me Max romperebbe il ghiaccio. Cioè, però, capito la storia, cioè questo è però perché accetto, perché prima abbiamo parlato e lei mi ha detto guarda che comunque io sono molto professionista, mi lubrifico, quindi con me non rimarrebbe scioccato, bravissimo, mamma non ci sarebbe lo shock, perché tu no. Chi se ne frega di quello che fate ste porcherie, fatevele però, a casa vostra. Attenzione, c'è un altro elemento. Max Felicitas fa porno da un po' di tempo. Ci potrebbe essere un motivo per abbandonare il porno, qual è? Allora, l'unico motivo per cui abbandonerei il porno, sì, e per cui io sto cercando di fare il porno in maniera molto family friendly, ovvero cercare di portare nelle case il fatto che scopare è una cosa normale, non può essere ghettizzato il porno, perché scopare lo facciamo tutti, solo che io lo faccio avanti a una telecamera. Sì. Quindi, diciamo, il compimento di questo mio volere verso la popolazione è quello di riuscire a essere parte contribuente alla legalizzazione della prostituzione. Benissimo, cioè tu vuoi far parte di una campagna a favore della legalizzazione della prostituzione. Assolutamente. Perché? Cioè, vuole guadagnare anche su quello. Perché il mio fine sarebbe quello di aprire una catena di bordelli. Per forza, che hanno il mio nome, ovvero Felicitas, perché sai che fra un po' non ti tira più, dai. La prostituzione secondo me è felicità, ovviamente se non sfruttata, però la capisci? Prostituzione è felicità. Immagina dei bordelli in Italia con la scritta Felicitas sopra, dei bordelli Felicitas. Io non ci andrei mai. Ma tu non ci andresti, ma dove cazzo devi andare tu? Cioè, manco le puttane ti vorrebbero. Su quelli targati Rocco, no beh, questo ma perché è una certa età, ovvio, vai su quelli scritto Rocco perché è una certa età. E non chiedi scusa. E non chiedi scusa a Rocco dopo averlo insultato. Io non ho mai insultato nessuno. A un gigante del tuo settore devi chiedere scusa. Dai, fermi tutti, adesso torniamo. Fermi tutti. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta La Zanzara. Ormai buongiorno, sono sempre io, Gianmarco da Roma, quello che si nutre di succo polvare. E volevo dire, stavo a una festa, ho bevuto e dopo sono andato a prostitute, a mignotte, a troie, quello che ve pare. E sono stato benissimo, mi ha trattato da Dio, una milfona di 45 anni, da Dio. Sto tornando a casa a piedi, per quanto sto godendo. Ovviamente sto tornando a piedi perché mi hanno accompagnato. Beh, questo mi pare. Libidini. Allora ragazzi, qui da noi Max Felicitas, notizia molto importante perché da due anni non inserisce il suo uccello nell'ano, rifiuta l'anale, potrebbe fare un'eccezione per il ritorno sul set porno di un grande mito, Luana Borgia, uno dei miei miti, che è qui presente, ma le norme anti-Covid ci impediscono di averla qui. Ma Giuseppe, tu mai fatto una sega su Luana? Ha voglia, a non finire. Cioè... Ma infatti c'ha le mani piene di calli, non vedi quante calli c'ha sulle mani? La conversazione sta prendendo una brutta piega fin dall'inizio. Questo è vero, anche recentemente sul mitico Il Confine. Posso fare una domanda a Parenzo? Memoria, Il Confine, il mio film è sa memoria. Dimmi. Volevo fare una domanda a Parenzo, di cultura generale. Volevo chiedere, qual è la tua pornostar preferita? Non posso risponderle perché in realtà la mia cultura in questo campo è veramente limitata. Conosco semplicemente Bozzi, l'onorevole Staller, che è stato deputato del Partito Radicale con Marco Pannella, ma non ho mai visto un suo film. Cioè, tu non ti sei mai fatto una sega su un film porno? Non ho capito, questo è il punto, Davide. Non è possibile. È proprio un bigotto. Ma non è vero, poi, tra l'altro, non è vero. No, ma non credo che sia un argomento di conversazione. No, ho capito, ma ci sarà stato una volta in cui in un film porno sei stato lì davanti. davvero, da no, ragazzino no, a 18 anni, mai, a 20 davvero, anni. Non mi è mai possibile. Capitato di vedere questo tipo di film, insomma. Ma non è vero, ma è una cazzata questa. Ma no, vedi, ma anche perché, scusa, vedere che vuol dire? Quanto durano questi film? Un'ora? Ma no, no, ma, sono le scene, ma, no ma Parenzo, è a causa di persone come lei che l'Italia è ancora arretrata, sì, riguardo al sesso. Perché hanno paura ad ammettere che masturbarsi è una cosa normale. Cioè lei non si masturba, cos'è, un mostro? Io posso avere... mostro, ha dei problemi. Professor Felicitas, io posso avere mille responsabilità, mille problemi, posso essere disgustoso nel mio approccio della difesa dei migranti, però che lei dica che le responsabilità se il paese va male è perché io non ho mai visto un film porno, questo non glielo consento. No, ma perché lei quando dice non l'ho mai visto, lo dice in quell'area davvero, come che sia uno schifo vedere un film porno. Ma no, non dico che sia uno schifo, è una pratica che non mi ha mai stimolato. E invece Gottardo pensa che Felicitas che vuole aprire un bordello sia una cosa indegna. Ma Gottardo è ricoverato anche per questo, diciamolo chiaramente, è ricoverato in questa struttura di altissimo livello anche per curare questa patologia, diciamolo. No, assolutamente, anzi me la aggrava con tutta la gnocca che gira da ste parti. Scusa, non ho capito Alberto, patologia. Secondo te aprire un bordello, cioè Felicitas che vuole aprire un bordello con i suoi nomi, Felicitas, se mai dovesse essere legalizzata la prostituzione in Italia, che cos'è? Non ho capito, cioè è una porcheria. È una forma di pensione anticipata che Felicitas sa di dover prendere perché all'età di Rocco sicuramente non ci arriva con le prestazioni che ha Rocco Siffredi. Beh, io non so, io non so perché dobbiamo parlare di Rocco in questo momento. Sì, dovresti scusarti, perché il porno in Italia non sei tu, è Rocco Siffredi. Vabbè, ma lasciamo perdere sta cosa, e chi se ne frega. Vabbè, sarà per i vecchi come te ecco, guarderanno Rocco. Ecco, io voglio capire una cosa, ma è vero che adesso tu sei anche su OnlyFans? Sì, io ho aperto OnlyFans e lo uso principalmente per quelli che sono i miei fan, la mia parte di fan gay che è molto felice nel vedermi. E che fai, diciamo, su OnlyFans? Io su OnlyFans no, faccio, non so, le foto e i video davanti allo specchio mentre mi masturbo, ma faccio i video in cui sono disteso nel letto e mi sborro addosso, cioè cose così. Mamma mia, mamma. Però non ho capito. Perché non ho... Felicitas è sempre stato un po' equivoco su questo, cioè gira voce nel mondo omosessuale, nel mondo del porno che sia voce. Gay. Però non è un'offesa, cioè non è un'offesa. No, ma allora io i miei gusti sessuali li conosco, io sono etero e lo posso lo può confermare anche il mio 100%. Coinquilino. Cioè, la mia casa è un via vai di ragazze. Okay. Perché tu sei addicted, sei un malato di figa. Io sono un malato di figa. Cioè, oggi, per esempio, quanto hai scopato oggi? Io ho già scopato due ragazze. Oggi due ragazze. Però stasera arriva la terza. Cioè, stasera arriva la terza. E intanto il coinquilino. E il coinquilino ogni tanto una botta gliela dà. No, ma guardi, allora io non so perché fare ironia su un tema che, cioè, anche se fosse, non lo è, ma anche se fosse, cosa ci sarebbe di male? È una domanda legittima. Anche se fosse, cosa ci sarebbe di male? Ma infatti non c'è nulla di male. Per esempio, Luana è praticamente bisex. Luana è praticamente bisex. Ma io smentisco. No, ma scusate, ma qualcuno di questa assemblea lavora durante il giorno o no? Guardi, perché io qua non riesco mica a capire. Lorenzo, io lavoro più di lei, forse. Qualcuno di questa assemblea autorevolissima. Io lavoro più di lei. È lei che non fa un cazzo. Io lavoro. No, ma quello lavora come un pazzo. Se non lavora Felicitas, ragazzi, guarda, scopare è una fatica tremenda. Scopare, fare le scene è una fatica enorme. Diciamoci la verità. Sì, anche poi io faccio tutto da solo, quindi capito, anche una rottura. Comunque, di palle, diciamo la verità, la cosa è questa: tu potresti riportare al porno Luana Borgia che vuole tornare a fare porno, e che il che è una notizia importante, il ritorno al porno di Luana Borgia e il ritorno nel culo del mio cazzo anche. Sì, anche quello insieme. Scusami Luana, non ho capito bene, ma tu veramente vuoi tornare? Ma perché alla tua età, 54 anni, vuoi tornare a fare porno? Non ho capito. Perché mi manca. Ma ho capito, ti manca. Mi manca il set, mi manca divertirmi con gli attori sul set. Ma sei c'hai delle richieste? Ma figurati, certo, ma parecchie richieste. Ma neanche Madame Tussaud, ma figurati. Ma che c'entra Madame Tussaud? Ma mica è una mummia, ma cioè, è spettacolare, guardala, cioè la puoi guardare. Ma dov'è Parenzio? Piacerebbe vederla di persona, Parenzio. Ma è un mezzo cesso, Parenzio, è un mezzo cesso. Grazie ragazzi, grazie. Grazie Luana, grazie Max, ciao. Viva la figa. Ciao. Esther da Milano, vai Esther, dimmi. Senta, buonasera. Ieri sera. Oddio. Ieri sera ho sentito che parlava di straccioni di e di quelli che hanno le pesce nel sedere. che un ricco viene qui a pagare le tasse, no? No, io ho detto un'altra cosa. Ma lei parla, però dopo lei è capace di dire che non l'ha detto. Brava, sappiamo, no? La smascherata, Esther, eccola qua, ecco la vecchia Esther che rompe i coglioni. Senta. Allora, Esther, la questione è molto semplice. Io ho detto una cosa, che Suarez, il fatto che sia milionario, dunque porta un sacco di tasse in Italia, pagherebbe un sacco di tasse in Italia, bisognerebbe dare la cittadinanza onoraria italiana, non queste puttanate degli esami di lingua italiana. Ma senta, lei non deve nominare gli straccioni, quelli che hanno le pezze nel sedere, perché quella gente lì pulisce la strada dove lei mette i piedi. Dato che questa radio vuole le telefonate di decoro, allora è meglio che registra tutte le cavolate che dice lei. Almeno se le registra, sa cosa dice. Guarda, perché lei va fuori con la testa tante volte. Guarda sta vecchia rincoglionita. Poi chiude il telefono, richiamatemela di nuovo. Poi chiude il telefono all'improvviso, chiude di nuovo il telefono. Tun. Daniele da Roma. Vai, ha ragione Daniele. Daniele, dimmi. Giovanni, buonasera. Dimmi. Io trovo che, parlando di Covid, questo piccolo capolavoro di regime sia aver diviso i negazionisti, che quindi sono risibili, sono indifendibili, con quelli di regime che ti vogliono imporre questo e quest'altro. Perché l'unica cosa che non si può fare è guardare in faccia il virus, che si dice sia subdolo, si dice che sia pernicioso. Allora, nel 99% dei casi è meno forte di una qualsiasi cazzo di influenza. Nell'1% dei casi, salvo eccezioni, e dico salvo perché sennò ti dicono... Esther, aspetta un attimo, Esther! Sì. Ma che cazzo vuoi ogni volta che chiudi il telefono? Ma io non voglio niente. Lei non ha mica aperto una linea. Lei parla solo di troie, che le donne non sono tutte troie, no? Ma è così. Ma chi ha detto che sono tutte troie? Se lei ha aperto non può solo lei sputanare la povera gente. Ma chi sputana la povera gente? Di bocca. Non c'è il virus. Ma quanti anni hai? Quanti anni hai? I medici sono tutti, come dice Sgar, no? Lei a quel livello lì quanti anni hai, Esther? Adesso la faccio chiamare da Felicitas, altro che. Daniele, stai dicendo? Giù. Alessandro dalla provincia di Venezia, vai. Alessandro. Bravo. Dimmi, Alessandro, dimmi. Brava. Sì, pronto? Dimmi. Pronto, eccomi qua. Buonasera, Cruciani. Sì. E ai tuoi ospiti. Due. No, non ce ne frega niente, dai. Dimmi. Non so se si stanno pulendo le zecche a vicenda, la Bottarga e Pozzetta. Ascolta una cosa, io ho letto una notizia, non so se sia vera, sul giornale riguardo al trasferimento di alcuni Rom nei quartieri Parioli. Volevo chiedere appunto a Goffredo e Pazienza cosa ne pensano i due scicchetti da del Questo è anche simpatico, perché ci ha messo dei mesi di elaborazione durante l'estate per prendere la linea e per fare questa battuta. E gli è riuscita anche male. Ma non lo so, i Rom e i Parioli, per me i Rom non esistono. Gruppi Rom, cioè nel senso che c'è un progetto, anzi, no, forse alcuni sono finiti in una zona un po' chic che naturalmente si è ribellata. No, ma non volevo sentire parlare te, volevo sentire Caccamo e Zizzina lì. Ma che gliene frega loro dei Rom e i Parioli? Sono loro i due radical chic, soprattutto il Puzzetta, non è radical chic che vuole bene a tutti. Non so se premetto, non sono arrivati con i balconi, Sì. Non so se con l'epiteto Puzzetta lei si riferisse a me, caro testa di cazzo. Sì, però, tu sei Puzzetta, però, e quell'altro grassone l'epiteto... è Bottarga. Beh, grassone è un cazzo, sono a dieta, sto tenendo un sacco di chili. Sì, pronto? Ormai... Cosa fa adesso? Arrivo. Con chi stai parlando? Concentratevi su, dai. Con chi stai parlando? La mamma ha fatto risotto, amico? La mamma ha fatto risotto. Lei vive ancora con sua madre, chiaramente. Teste di cazzo come ma lei voi, vive come ancora no? con sua madre? Lei vive no, chiaramente no. ancora con sua madre? No, sì. Io sto aspettando una risposta da due persone piene di zecche come voi, ma non me la date. Vai che il risottino è pronto, tesoro. Come mai non mi date una risposta? Perché non rispondete? Hai 40 anni, vive con la mamma. Dai, che ti ha preparato un risultato? Una risposta. È un Hikikomori anche lui. Se sta nella stanzetta. Lo chiama la mamma. Io lavoro, vivo a casa con mia moglie. Ha sempre lavorato? Lei ha sempre lavorato? Ma io ti ho fatto un'altra domanda. Qual è la domanda? Non l'abbiamo capita però. Posso capire, insomma. Ma non l'abbiamo capita la domanda, perché lei biascica. La domanda è molto semplice. Volevo capire se i due scicchettini là, quelli di Zecche, quando hanno finito di pulirsi, mi danno un'opinione sul fatto che questi rom vengono trasferiti nei quartieri bene, e quindi mi piacerebbe sapere se un bel giorno li vanno a rubare le mutande o i mutandoni per il ciccione, e cosa fanno, se gli va bene vivere così. Tutto qua. Se mi rubano, insomma, le mutande, ne compro delle altre. Se mi rubano le mutande, ne compro delle altre. E ma non ho la mamma che mi chiama per dire che è pronto il risotto. Ma okay. No, io vado a mangiare la pizza questa sera. Però scusami, Alessandro, sta ponendo una questione seria. Siccome al quartiere Parioli di Roma si sono ribellati perché un gruppo di nomadi sono stati trasferiti da via del Fuori Italia. Sì, ma non voglio una tua risposta, Cruciani, porca la puttana. C'hai due bambini là che possono parlare, perché non li fai parlare. Da dove chiama lei, scusi? Da dove Venezia. Che... l'aereo, avevo capito l'aereo. L'aereo del vaporetto, a Canareggio. Va bene, perché? Cosa c'è da finta contro i veneziani? No, adesso. Ma figurati, sono veneto, ma figuriamoci, sono di Padova, no, però mi piace molto la tua erde, così. Allora, dove la ma allora dove la mangi la pizza stasera? Sì, però rispondete, rispondete. Io è da 5 minuti che sto aspettando ma una che risposta. Ti do io la risposta, amico veneziano, che avrei sicuramente votato per Bugnano. Una me la dà la tua compagna Zecca. Benissimo. Allora la risposta è molto semplice. Non esistono quartieri bene. E se hanno trovato un'area adeguata, benvengono anche i rom. Benvengono anche i rom. Fermi tutti, ragazzi! Italiani! Italiani! Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Martina e oltre mezzo milione di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.